Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Bien, siamo giunti. Buona domenica. L'appuntamento rinnovato per domenica prossima alla stessa ora. Grazie a Walter per la regia, grazie a voi tutti per la cortese attenzione. Alla prossima.